San Gregorio nacque intorno al 1025 a Soana, in Toscana, vicino Grosseto. Il suo nome prima di diventare papa era Ildebrando. Della sua giovinezza non sappiamo molto. Il papà Bonizzone era un uomo di umili condizioni e divenne poi soldato. La madre fu invece quasi certamente una donna nobile romana. Ildebrando fece, possiamo definire, la scuola elementare di allora dei nobili nel patriarchio lateranense e all'incirca tra il 1033 e il 38, quindi all'età di 10-11 anni, i genitori chiesero e ottennero dal monastero di Santa Maria sull'Aventino che il loro bimbo fosse accolto come oblato. Ed entrare in un convento come oblato era il modo allora per acquisire una buona formazione culturale e una seria educazione morale. Il giovane poi poteva decidere se uscire dal monastero per condurre una vita laicale o se rimanere come monaco oppure in vista di un'eventuale carriera ecclesiastica. E nel monastero di Santa Maria sull'Aventino, Ildebrando trascorse almeno 5 anni della sua vita e qui anche cominciò a maturare la coscienza di cristiano e di futuro uomo di chiesa. Pur non avendo ancora fatto la professione religiosa, conduceva vita da monaco, pregando, studiando e sbrigando le faccende del convento insieme con i suoi confratelli. A pensare alla sua formazione vi erano due maestri, Giovanni Graziano, arciprete canonico di San Giovanni a Porta Latina, e Lorenzo, arcivescovo di Amalfi. Lorenzo in modo particolare aveva un ruolo di spicco nel governo di questo convento, che era uno dei 4 conventi che a Roma avevano accolto e adottato la riforma monastica di Cluny in Francia. E infatti Lorenzo era intimo amico di Odilone, abate di Cluny. E qui proprio la fama di questo grande monastero in Francia e della sua, soprattutto della sua integrità, della sua serietà, cominciò ben presto a diffondersi allora in tutta l'Europa e ovunque furono fondati monasteri proprio su questo esempio. E quel che più conta, e vedremo perché tra un attimo, il monastero non dipendeva dai poteri locali, ma solo dalla casa madre di Cluny. Dicevamo, è necessario a questo punto spendere anche qualche parola sulla condizione sia del monachesimo che della Chiesa nell'undicesimo secolo. Già prima di Carlo Magno, ma soprattutto a partire dal suo lungo regno, Chiesa e Impero avevano cominciato ad amalgamarsi e a stringere un'alleanza sempre più forte. Ed allora il Regno dei Franchi, che divenne poi il Sacro Romano Impero, si atteggiò a difensore della Chiesa. Questo per la Chiesa fu un grande successo. Da una parte si garantì un aiuto militare che potesse difenderla dalle aggressioni e dalle oppressioni dei nemici, pensiamo solo ai Longobardi, evitandole di dover cadere così in balia delle minacce e dei ricatti dei potenti. Dall'altra poteva avviare anche un processo di vera evangelizzazione in tutta la società. Ma la contropartita fu però che mentre gli imperatori aiutavano la Chiesa, cristianizzavano addirittura le strutture dell'impero ed erano, in molti casi dobbiamo dirlo, essi stessi luminosi esempi di fede e di pietà, la Chiesa purtroppo si secolarizzava sempre di più, i vescovi divennero quindi conti dell'impero, addirittura feudatari, preti e abati accrescevano le corti dei re e dei principi, facendo loro quei valori mondani che erano lontanissimi dal cristianesimo, facendo loro quelle consuetudini libertine e l'amore soprattutto per le ricchezze e per le comodità. E infatti, cari amici, le sedi delle abbazie erano divenute come le sedi vescovili o lo stesso trono papale erano diventate appannaggio di famiglie nobili o ricchissime. L'abate, che avrebbe dovuto essere eletto dai monaci, soprattutto in base alla sue qualità morali e spirituali, era invece spesso il pupillo di qualche potente signore, laico e ecclesiastico. Inoltre, a causa delle molte donazioni che re e principi cattolicissimi devolvevano ai monasteri, questi monasteri diventavano talvolta molto ricchi. E quindi abati e monaci spesso, più che guidati da una sincera vocazione, erano attratti dalle ricchezze e dagli onori. E nel degrado morale che si verificò proprio nel mondo cristiano tra il IX e l'inizio dell'undicesimo secolo, due piaghe particolari furono da sottolineare. Erano la simonia e il nicolaismo. Con la simonia intendiamo, come sappiamo, la compravendita di doni spirituali e di benefici ecclesiastici. Qui, proprio a causa della rilassatezza spirituale diffusa ormai tra il clero, era spesso più facile ottenere una sede abbaziale o episcopale, sborsando del denaro, che mostrando invece qualità morali degne di una tale carica. Ora è evidente che chi, cari amici, cercava negli impieghi della Chiesa benessere e potere, si interessava poco o nulla dell'osservanza delle virtù morali, prime fra tutti la castità. E proprio l'allontanamento del celibato clericale, detta nicolaismo, fu un'altra grande piaga della Chiesa di allora. E nei monasteri il concubinato era presente e nel clero secolare era ormai più o meno accettato pacificamente. Scrive un personaggio di allora, Guido da Ferrara, dice: i preti non si distinguevano più dal resto della popolazione. Non mancò, dobbiamo sottolinearlo in modo forte, da parte di uomini veramente integri, sinceri, lo sdegno e la protesta di fronte a tante immoralità. Ma i discorsi infuocati di, per esempio, di San Pier Damiani e anche di Umberto di Silva Candida non potevano nulla contro una condizione ormai purtroppo radicata. Come abbiamo detto, una delle cause principali del degrado della Chiesa in quei secoli fu proprio la debolezza del papato. Qui l'alleanza con il regno dei Franchi non compromise almeno all'inizio l'integrità morale dei papi. Per esempio San Leone III e San Nicolo I sono solo due esempi dell'altissimo livello dei pontefici nel IX secolo. Tuttavia il papato si trovava moralmente costretto a ricambiare l'autorità imperiale offrendole il suo appoggio spirituale e la sua fedeltà. E quando nel 962 Ottone I il Grande restaurò il Sacro Romano Impero, fu sancito tra lui e il Papa il celebre Privilegium Ottonianum, che prescriveva ai Romani di non eleggere né ordinare alcun Papa senza il consenso e la scelta dell'imperatore. E qui la supremazia dell'impero era chiara, e del resto sotto un certo aspetto non spiaceva agli stessi uomini di Chiesa, dal momento che in questo modo la scelta del sommo pontefice era sottratta alle meschine contese tra i partiti romani e affidata invece a un uomo di alta e seria coscienza religiosa, qual era l'imperatore. E i criteri di scelta di questi imperatori erano, per la maggior parte dei casi, veramente ispirati a un autentico desiderio di bene per la Chiesa. Da tempo inoltre si era tacitamente instaurata anche la consuetudine secondo cui la facoltà non solo di scegliere e nominare, ma anche di investire e consacrare preti e vescovi, spettava oltre che al Papa e ai prelati ecclesiastici, anche alle autorità civili. Era una situazione, cari amici, che non poteva più reggere, il tempo era maturo. E nell'undicesimo secolo la Chiesa cominciò a combattere l'investitura laica come un male, e come vedremo non per un processo al re all'imperatore, ma perché le cose cambiarono proprio a partire da Enrico IV. Enrico IV, che abusò del suo potere nominando per interessi politici e personali vescovi indegni, mentre allo stesso tempo sul trono di Pietro sedeva ormai Gregorio VII, un papa di altissima levatura. E come dimostrerà durante tutta la sua vita, Ildebrando, Gregorio VII, aveva a cuore veramente solo il bene della Chiesa e della sede apostolica romana. Ma andiamo per ordine. C'era allora era sommo pontefice allora Gregorio VI e moriva proprio in quell'anno, nel 1047. Viene eletto Clemente II e anche Clemente II, il papa che era stato voluto da Enrico III, l'imperatore allora del Sacro Romano Impero, che l'aveva eletto, anche Clemente II muore nello stesso anno. Dopo Clemente II viene nominato come papa Damaso II, ma appena 3 settimane dopo la sua consacrazione, Damaso morì anche egli di malaria. L'imperatore allora rivolse la sua attenzione al vescovo Brunone di Toul, un uomo di santa vita, il quale solo a malincuore accettò il pesante fardello del pontificato. Prima di partire per Roma, Brunone conobbe Ildebrando. Il vescovo rimase colpito dall'integrità e dalla religiosità del giovane, che non era ancora né sacerdote né diacono, e volle averlo con sé a Roma. Ancora una volta Ildebrando, come dirà egli stesso, accettò controvoglia di abbandonare la pace claustrale del convento, ma obbedì. Era il febbraio del 1049 e il nuovo papa a Roma assunse il nome di Leone IX. Ildebrando aveva probabilmente circa 25 anni quando fu al seguito del papa, e fu allora che ebbe inizio la sua ascesa nella carriera ecclesiastica. Già nel 1049 Papa Leone lo ordinò suddiacono e probabilmente anche cardinale. Comunque quel che è certo è che il De Brando, dal suo ritorno a Roma in poi, divenne un personaggio sempre più influente e prestigioso all'interno della Chiesa romana. Per la verità, lui si sentiva in cuor suo chiamato a una vita più modesta, ritirata, quieta. Avrebbe ben volentieri rinunciato ai compiti e agli onori delle cariche. Ma nonostante la sua avversione, fu costretto a prendere sempre più nelle sue mani le redini della Chiesa. Leone IX lo nominò tesoriere della Santa Sede e rettore ed economo del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma. E qui, mentre il giovane si impegnava a risanare le condizioni morali e materiali del monastero di San Paolo, che erano piuttosto deprecabili, e badava anche alle finanze della Chiesa romana, Papa Leone IX, che poi è stato proclamato santo dalla Chiesa, si adoperava con zelo alla riforma morale del clero e dei fedeli. Già prima di arrivare in Italia, questo Papa aveva provveduto a circondarsi di validi e integerrimi collaboratori, primo fra tutti il De Brando, poi Federico di Lorena, che fu il futuro Papa Stefano IX, e molti altri, tutti personaggi importanti di levatura eccezionale e tutti nemici della simonia e del nicolaismo. In particolare, cari amici, Umberto di Silva Candida si fece notare per il suo zelo a favore del papato. Nelle sue opere affermò senza mezzi termini la superiorità del potere sacerdotale sul potere regale. E la sua esaltazione della figura del romano pontefice fu ripresa anche da San Pier Damiani, come vedremo, e dallo stesso Gregorio VII, i quali però non condivisero l'asprezza, l'eccesso di Umberto e soprattutto il suo disprezzo dell'autorità regale. E qui dobbiamo dire che un altro eccesso di questo cardinale fu, come ricordiamo, la sua durezza nei confronti della Chiesa bizantina. Ricordiamo che Leone IX lo aveva inviato a Costantinopoli per cercare e per risolvere i problemi tra la Chiesa latina e la Chiesa greca. Ma proprio il temperamento focoso di Umberto e anche la rigidità del patriarca bizantino Michele si scontrarono e portarono allora alla reciproca scomunica e allo scisma che tuttora esiste tra le due chiese. Questo avveniva nel 1054. Tornando a Leone IX, fu un papa, possiamo dire, autoritario, ma seppe ripulire la Chiesa da un gran numero di vescovi simoniaci e indegni che non esitò a scomunicare e deporre. Si preoccupò anche di difendere la dottrina cattolica contro le eresie, in particolare allora condannò Berengario, direttore della scuola di Tours, che, ricorrendo a certe sottigliezze dialettiche, negava la presenza reale del corpo e del sangue di Gesù nel pane e nel vino consacrato. Il Papa indisse proprio un sinodo a Tours e vi mandò come legato pontificio proprio il De Brando, che svolse questa missione con estrema dignità, educazione e carità. Pensate che lo stesso Berengario, che era sotto accusa, scriverà: «Ebbi a che fare con uno che, al posto di venirmi a reprimere con spade e bastoni, venne ad ascoltarmi con spirito di mansuetudine e in nome del Signore». E troviamo già qui, cari amici, i tratti caratteristici della personalità di Papa Gregorio VII. Intanto, la notizia della morte di Leone IX costrinse il De Brando ad interrompere proprio a Tours questa sua missione. I romani quindi lo pregarono di recarsi dall'imperatore per chiedere di designare un nuovo papa. Fu scelto il vescovo Ghebardo, che salì al trono pontificio nel 1055 col nome di Vittore II. E proprio in quel periodo il papa si trovava in grandi difficoltà sia con il regno di Toscana che con i normanni. Decise allora c'era il pericolo che venisse attaccato, decise allora di chiedere aiuto, di andare in Germania e chiedere aiuto all'imperatore. Ma poco dopo il suo arrivo alla corte imperiale, Enrico III morì. Da buon cristiano e da sovrano devoto alla Chiesa quale si era sempre mostrato, affidò al Papa sua moglie Agnese e il figlioletto di appena 6 anni, colui che col nome di Enrico IV diverrà, cari amici, uno dei più grandi nemici di Gregorio VII e della sede apostolica. Intanto, sempre Vittore II, durante la sua discesa verso Roma, ad Arezzo, improvvisamente morì. Era il 28 luglio del 1057. In quel momento il De Brando si trovava a Roma, ed è senz'altro anche per suo suggerimento che il clero, pochi giorni dopo la morte di questo papa, acclamò il nuovo pontefice in Federico di Lorena. E qui l'elezione a Papa di Federico, che prese il nome di Stefano IX, fu già in se stessa una sottile sfida all'impero. Infatti che Stefano IX fosse stato acclamato Papa senza nemmeno consultare la corte germanica non era una cosa certo gradita ad Agnese, all'imperatrice. Era chiaro che il papato stava assumendo sempre più potere di fronte all'impero, cercando di rendersi indipendente. Ciononostante, Stefano IX ritenne opportuno mantenere rispetto verso l'istituzione imperiale e inviò quindi una delegazione in Germania con a capo Ildebrando per chiedere all'imperatrice Agnese di confermare questa sua elezione e Ildebrando ottenne l'assenso. Quando Ildebrando era ancora in Germania, giunse anche qui la notizia dell'improvvisa morte del Papa. Siamo nel 1058. Qui però i romani, infastiditi dall'eccessivo rigore che instaurato dai papi riformatori e per la verità anche aizzati dal partito dei nobili dei Tuscolani, crearono immediatamente Papa un certo Giovanni, vescovo di Velletri, che assunse il nome di Benedetto X, quindi era un antipapa praticamente. Appresa la notizia, Ildebrando, che ormai era in pratica un po' l'arbitro della Chiesa, si recò a Firenze e con il consenso di Agnese convocò un sinodo a Siena dove fece eleggere Papa con il nome di Nicolò II, il vescovo di Firenze Gerardo. Benedetto fu costretto a lasciare Roma e Nicolò fu insediato sulla cattedra di San Pietro. E qui questo pontificato segnò una svolta decisiva nella storia della Chiesa, in particolare del suo rapporto con l'impero. Dobbiamo dire che in realtà dietro l'opera di Nicolò II troviamo la presenza costante del cardinale Ildebrando, che si può dire che fu un po' l'anima delle riforme di Papa Nicolò. Il 13 aprile del 1059 si apriva in Laterano un solenne sinodo, cui parteciparono ben 113 vescovi provenienti da tutto il mondo cattolico. In esso il Papa condannò ufficialmente l'investitura laica. Fu una cosa enorme allora, no? E disse il Papa: nessun chierico sacerdote deve giammai ottenere una chiesa per mezzo di un laico, sia gratuitamente sia a prezzo di denaro. Era, cari amici, la prima volta che la Chiesa apertamente respingeva questa pratica ormai comunemente accettata. Fu allora una decisione rivoluzionaria, anche se poi in realtà non faceva che tornare a quella che era l'antica legge canonica, che già nei secoli precedenti aveva sempre condannato l'ingerenza laica nelle ordinazioni di preti e vescovi, che spettavano ovviamente solo alla Chiesa. Non solo. Oltre a questo decreto sull'investitura laica, il sinodo dichiarava solennemente che da quel momento in poi l'elezione dei papi sarebbe stata riservata esclusivamente ai cardinali. L'imperatore quindi non solo non avrebbe più potuto designare il nuovo pontefice o arrogarsi il diritto di dare il suo placet, come voleva invece, ricordo, il privilegium ottonianum, tanto più che proprio nel prosieguo del testo il sinodo dice che se gli imperatori sono tali, cioè se sono imperatori, è la Santa Sede ad accordare loro questa dignità. Quindi si era praticamente rovesciato un po' la situazione. E il sinodo lateranense del 1059 aveva ormai, cari amici, avviato irreversibilmente, come sarà, la lotta per la libertà della Chiesa, lotta poi che nel pontificato di Gregorio VII troverà i suoi momenti più gloriosi e allo stesso tempo più tragici, come vedremo. Ovviamente questa presa di posizione da parte del Papa fu mal visto dalla corte tedesca e l'ostilità di Agnese, che era l'imperatrice reggente, fu inasprita anche dal constatare che la Chiesa si stava alleando con Goffredo di Toscana e soprattutto con i nemici dell'impero, che erano i Normanni. Normanni che promisero il loro sostegno al Papa, ma, come vedremo, si dimostrarono alleati quanto mai pericolosi e ambigui per la Chiesa, anche se in molti casi necessari e preziosi. Intanto, prima di morire, Nicolò presiedette un altro importante sinodo nel 1061, dove proibì ai fedeli di partecipare alle messe officiate da preti simoniaci e concubinari. Ordinò inoltre la deposizione di molti vescovi, la cui ordinazione, essendo avvenuta per simonia, cioè avendo acquistato questa carica, era considerata non valida. Alla morte del Papa, la nobiltà romana inviò immediatamente un'ambasceria in Germania per chiedere ad Agnese di nominare un successore. Pensavano infatti di sbarazzarsi della serie di papi riformatori che facevano capo ad Ildebrando, tanto più che ora Agnese non aveva buoni rapporti con il papato. Il cardinale allora cercò di salvare questa realtà, questo partito della riforma, possiamo dire, nominando Papa Anselmo vescovo di Lucca. E il 1 ottobre del 1061 Anselmo divenne papa con il nome di Alessandro II. E fu eletto nel 61, ma qui ci furono diverse contestazioni da parte dei nobili, ma anche perché la corte ovviamente tedesca non voleva e non voleva questo papa praticamente, e quindi riuscì ad insediarsi a Roma soltanto nel gennaio del 1065. Questo pontificato si propose innanzitutto un rafforzamento e una centralizzazione del potere della Chiesa, ma voleva molto di più. Non bastava al Papa che si riconoscesse il primato d'onore di Roma, bisognava riconoscerne anche il primato di giurisdizione, quindi di territorio. Se fino ad allora era abitudine ascoltare con rispetto la Santa Sede, ora la Santa Sede esigeva di essere obbedita. Il Papa cominciò ad avocare a sé decisioni, come per esempio la scelta dei nuovi vescovi, che tradizionalmente erano scelti invece dal clero locale. Quanto al rapporto con l'impero, la situazione precipitò. Il giovane re Enrico IV, che nel 1065, all'età di 15 anni, era stato dichiarato maggiorenne e quindi non più sotto la reggenza della madre Agnese, fece subito chiaramente capire il suo carattere. Pensate, all'età di 16 anni fu sposato a Berta di Susa, una donna dolcissima, ma il re, dopo appena un anno di matrimonio, tentò di disfarsene, chiedendo invano persino alla Chiesa di Roma di annullare il matrimonio. Già da adolescente faceva poco conto dei valori morali e con molta disinvoltura frequentava e appoggiava simonieci e concubinari. E qui la tensione fra papato e impero era ormai altissima e ne fu accentuata dall'ultimo atto del pontificato proprio di Alessandro II, proprio dal sinodo del 1073. E in questo sinodo il Papa scomunicò i collaboratori e gli amici del re che praticavano la simonia. Il re stesso, quindi, che li frequentava, cadeva perciò stesso nella scomunica ed era pertanto invitato a giustificarsi dalle accuse che gli venivano fatte. Poco dopo, anche Alessandro II morì e Enrico IV non diede alcuna risposta all'atto papale. E il 21 aprile del 1073 Roma era in lutto. Il Debrando indisse al clero e al popolo 3 giorni di digiuno e la recita di litanie per invocare l'assistenza dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Il 22 aprile si procedette alla cerimonia funebre di Alessandro II nella Basilica del Laterano. E qui all'improvviso la folla cominciò a tumultuare e un grido da prima sparuto isolato si fece generale. Tutti gridavano il Debrando Papa. Lui, allarmato da quel segnale, salì sul pulpito per convincere i fedeli dell'insensatezza della loro acclamazione. Ma Ugo il Bianco, uno dei cardinali, prese la parola a Ildebrando e confermò con fervore il grido del popolo. Insomma, poche ore dopo si riunì il collegio cardinalizio e ratificò ufficialmente l'elezione. Ildebrando fu proclamato papa e venne subito ordinato sacerdote e vescovo, prendendo il nome di Gregorio VII. Possiamo dire che stette per 2 giorni a letto ammalato, perché non voleva, non si sentiva all'altezza di questa carica, di questa missione che interpreterà nel modo più cristallino e più giusto possibile, come vedremo, anche a costo della sua stessa vita poi. Lui stesso scriverà più tardi, rivolgendosi ai suoi patroni prediletti, San Pietro e San Paolo, scriverà questo pensiero e dice: molto controvoglia, con gran dolore, con gemito e con pianto, assolutamente indegno fui posto sul vostro trono papale. Dico ciò perché io non ho scelto voi, ma voi avete scelto me e avete messo su di me il pesantissimo fardello della vostra Chiesa. Gregorio VII sapeva benissimo a cosa andava incontro e alle lotte che erano ovviamente in atto. Allora aveva circa 46 anni. Ci viene descritto di statura modesta, magro e da lineamenti ascetici. E come aveva fatto da cardinale, così anche da papa continuò a condurre una vita di tipo monastico, pur tra i tanti impegni che doveva sbrigare. Ci racconta Guido di Ferrara. Si era dato completamente ai digiuni. Guido di Ferrara lo conobbe, Gregorio VII, addirittura lo frequentò, quindi attendibilissimo. si era dato completamente ai digiuni. Era sempre dedito alla preghiera e intento allo studio. Aveva fatto del suo corpo il tempio di Cristo. Anche quando era presa dal sonno, si imponeva di vegliare e sopportava lieto la fame, pur avendo davanti cibi abbondanti e squisiti. Mangiava una sola volta al giorno e prolungava il digiuno fino alla sera. Convitando altri alla sua mensa, tra pietanze raffinatissime, egli solo si nutriva di erbe agresti, di cece e di legumi. E la sua devozione, la sua pietà, era nota a tutti. Pare che non lo si vedesse mai celebrare la Santa Messa senza che a un certo momento cominciasse a versare lacrime di commozione. E uno dei tratti, dicevamo, salienti della personalità di questo Papa fu proprio la sua estrema integrità. Scrisse a questo proposito ai potenti nel 1079: «Sappiate senza dubbio che con l'aiuto di Dio nessun uomo poté mai, né mai potrà, vuoi con l'amore, vuoi col timore o con quale che sia cupidigia, distogliermi dal retto sentiero della giustizia». E la sua profonda onestà di coscienza appare anche nel modo che ebbe di concepire il potere papale. Non si trattava, cari amici, per lui assolutamente di un privilegio di cui poteva godere, ma di una gravissima responsabilità da adempiere con grande fedeltà. Fu a volte eccessivamente autoritario e severo, ma non prese mai alla leggera la sua responsabilità di pastore universale. Nel frattempo, Enrico IV si comportava senza rispetto verso la Chiesa e continuava a praticare la simonia. Nel 1073 si trovava in stato, avevamo detto, di implicita scomunica a causa della condanna lanciata da Alessandro II contro i suoi collaboratori. Malgrado ciò, San Gregorio VII, nutriva ancora grandi speranze nei confronti del re e lo amava sinceramente, da una parte per l'ottimo ricordo che aveva della sua permanenza alla corte del papà di Enrico IV, che era l'imperatore Enrico III, uomo integro, abbiamo visto, pieno di fede e di carità, che aveva poi lasciato l'impero a questo suo ragazzo. E dall'altra anche era questo suo affetto era dovuto anche per il grande rispetto che Gregorio VII aveva comunque per l'istituzione imperiale. E se San Gregorio si illudeva che Enrico sarebbe presto diventato un vero sovrano cristiano e una colonna per la Chiesa, il re, dal canto suo, alimentava iniquamente, dobbiamo dire, la speranza del Papa. Nel settembre del 1073, Enrico IV gli scrisse una lettera al Papa che più che conciliante ci appare adulatoria. E qui un'altra grande alleata che non possiamo dimenticare del Papa fu allora Matilde di Canossa. Era una contessa, aveva 27 o 28 anni e fino alla morte del Papa gli rimarrà fedele e sarà anzi per lui un'alleata insostituibile e un'amica inestimabile. Ma tornando al nostro San Gregorio VII, all'inizio del suo pontificato concepì buone speranze anche nei confronti dei Normanni. Nell'estate del 73 si recò nell'Italia meridionale per tentare accordi con Roberto di Guiscardo e Riccardo di Capua. Riuscì a ottenere da Riccardo un giuramento di fedeltà, ossia di vassallaggio. Roberto invece era diffidente verso il Papa. Il Papa ne fu indignato e nel sinodo quaresimale del 1074 lo scomunicò. Ma il Normanno non se ne curò affatto. In questo sinodo romano, che aveva luogo a quasi un anno dell'elezione di Papa Gregorio, diversi vescovi e arcivescovi, coinvolti in vari vizi, vennero scomunicati o deposti, tra cui Goffredo, arcivescovo di Milano. La sentenza più grave del sinodo fu però l'autorizzazione da esso data ai fedeli a disobbedire a vescovi e preti che erano concubinari o simoniaci, quindi a opporsi ad essi e addirittura a disertarne i sacramenti, compresa la messa. Fu una decisione, cari amici, questa ardita, sia anche dal punto di vista teologico, perché sembrava quasi che negasse validità ai sacramenti celebrati da sacerdoti indegni, mentre invece sappiamo che il sacramento è comunque valido. ma portò purtroppo anche a deplorevoli eccessi, soprattutto da parte dei Patarini. I Patarini erano, come sappiamo, un partito di Milano che combatteva contro i simoniaci e contro i concubinari, quindi anche il Papa era dalla loro parte, ma ci furono degli eccessi veramente indicibili allora. E proprio i decreti di questo sinodo furono accolti, come si può immaginare, con estrema ostilità in generale dal clero cattolico, ma soprattutto in Germania e Lombardia. Perché? Perché si toccavano molti interessi, dei nobili, oltre che di tante altre persone. Non migliore fu l'accoglienza negli altri paesi, tra cui la Francia, dove ad esempio l'arcivescovo Giovanni, legato pontificio incaricato di annunciare gli atti al clero francese, rischiò addirittura di essere lapidato. E dinanzi alle ribellioni, alle proteste e alle opposizioni, San Gregorio non cedette mai. Anzi, cominciò a esortare i fedeli a disobbedire a quei sacerdoti e a quei vescovi e a contrastarli. In Francia, per la verità, la resistenza al Papa non veniva solo dal clero, ma anche dal re, il giovane indisciplinato Filippo I. San Gregorio lo definiva un lupo rapace, tiranno iniquo, nemico di Dio e della religione e della Santa Chiesa. Tuttavia Filippo, pur trascurando senza scrupoli le direttive di Roma e pur praticando a larga mano la simonia, non adottò mai, come purtroppo invece farà Enrico IV, atti di ostilità, di guerra contro il papato. Filippo si accontentava di fare vaghe promesse di ravvedimento che poi regolarmente non manteneva mai. Il Papa, esasperato dall'insolenza del re, scrisse il 10 settembre del 1074 una lunga lettera ai vescovi di Francia. Ve ne leggo pochissime righe, ma ci fa capire la grandezza di questo Papa. Scrive il Papa San Gregorio VII ai vescovi della Francia: «Maledetto l'uomo che trattiene la sua spada dal sangue, cioè, come voi ben comprendete, l'uomo che trattiene la voce della predicazione da rimproverare le persone carnali. Ora voi, fratelli, anche voi siete colpevoli, poiché non opponendovi col vigore del sacerdozio alle azioni miserabili del re, senza dubbio favorite la sua malvagità col consentirla. Inoltre, e lo diciamo contro voglia e con lacrime, temiamo assai che voi riceverete la sentenza non dei pastori ma dei mercenari, poiché vedendo il lupo che sotto i vostri occhi dilania il gregge del Signore, fuggite, nascondendovi nel silenzio come cani incapaci di abbaiare». Nel febbraio del 1075 San Gregorio aprì il sinodo quaresimale in Laterano e il decreto principale riguardò l'investitura laica. Il Papa non fece che ribadire e rafforzare la decisione del 1059 tenuto da Niccolò II durante quel sinodo. Gregorio era convinto che l'ingerenza laica nelle investiture ecclesiastiche stava gravemente danneggiando la Chiesa ed era una delle cause principali del degrado morale del clero. Auspicava pertanto che la scelta della nomina dei sacerdoti e dei vescovi, fosse riservata, come era giusto, soltanto alla Chiesa. Proprio in quei mesi anche la situazione a Milano stava peggiorando. L'ostilità tra i patarini e il clero locale concubinario si accentuava sempre di più, portando a grandi scontri, a scontri violentissimi. Anche dalla Germania non arrivavano buone notizie. Comunque, il Papa, nonostante la doppiezza del re, di Enrico IV, fu sempre ben disposto verso di lui, dando esempio di ammirevole benevolenza e di grande pazienza. Nella primavera del 74, proprio a motivo di questa sua stima, che comunque nutriva nei confronti di Enrico IV, gli inviò una legazione e lo assolse della scomunica del precedente Papa. Ma c'è però da dire che, per quanto potesse essere il suo amore e il suo desiderio di pace e di concordia verso tutti, il Papa San Gregorio VII non venne mai a compromessi, non vendette a nessun prezzo la verità e la giustizia, come lui amava dire. Il re, intanto, ci racconta sempre Guido di Ferrara, il re Enrico IV di Germania, lasciati da parte gli anziani e le persone serie, si dilettava della compagnia dei frivoli e degli immaturi, sia per età che per intelligenza. Cominciò a trascurare le pratiche di pietà, a bramare il lusso, a considerare tutto venale, a inseguire la lussuria, e pur essendo legato dal vincolo del matrimonio, teneva con sé molte donne. E qui il re, finché poté, aggirò il problema, evitando di disobbedire apertamente alla Chiesa. Quando però San Gregorio VII cominciò a farsi più incalzante e condannò l'investitura laica, Enrico avvertì che il suo gioco diplomatico non poteva continuare. Del resto, anche se l'amicizia e l'alleanza della Chiesa romana gli sarebbe stata vantaggiosa, non per questo voleva però rinunciare a quella superiore e incontestata autorità di cui i suoi padri avevano goduto, dettando addirittura legge essi stessi alla Chiesa. San Gregorio, come vedremo, giunse addirittura a scomunicare, tra un po' lo vedremo, il re di Germania, abolì i privilegi secolari, rivolse parole dure e minacciose contro il re di Francia, ma la sua non fu una lotta contro il potere laico come spesso la si è presentato, pure contro l'imperatore, ma fu una lotta contro quello specifico re che avrebbe poi dovuto diventare imperatore, Enrico IV, che deturpava e sviliva addirittura la dignità imperiale e non si comportava quindi da vero imperatore cristiano. Gregorio combatté chiunque potesse danneggiare allora la Chiesa, potesse danneggiare il popolo cristiano e la gloria di Dio, e allora non importa che si tratti di un re. Anzi, i legati del Papa raggiunsero Enrico IV il 1 gennaio del 1076 nella sua residenza di Goslar, portandogli la lettera di Gregorio VII, anzi intimandogli di presentarsi a Roma per giustificarsi ed emendarsi delle sue colpe, proprio questo in occasione del concilio quaresimale che si sarebbe tenuto a febbraio. Ma Enrico qui non accetta più questa possibilità di incontro, non tollerando più l'atteggiamento del Papa, anzi lui che era forte delle recenti vittorie conseguite sui Sassoni, sui suoi nemici più vicini, si decise a ribellarsi apertamente. Cosa fece? Il 24 gennaio convocò un concilio a Worms e dichiarò deposto Gregorio VII. Questo concilio si aprì con una lunga e violenta requisitoria contro il Papa, accusato dei più turpi e inauditi crimini, e si concluse con l'atto solenne di deposizione che Enrico volle poi seguito anche da un formale giuramento, e ogni vescovo fu costretto a giurare. Quando però si trattò di trovare qualcuno che fosse disposto a recarsi dal Papa per notificargli le decisioni di Worms, nessuno se la sentì. Alla fine accettò un prete di Parma, Rolando, che così all'inizio di febbraio partì per Roma. Proprio il 14 del mese il Papa apriva solennemente il sinodo quaresimale, ancora ignaro di quel che era avvenuto in Germania, quando proprio in quei giorni alla presenza di tutti i vescovi e i cardinali fu annunciato l'arrivo di Rolando. Questi intimò a Gregorio di scendere dal trono papale e di ritenersi deposto. Enrico gli aveva consegnato anche tre lettere, scritte di suo pugno, che probabilmente Rolando lesse in pieno sinodo lateranense tra lo sbigottimento e l'indignazione generale. Narra Brunone, uno degli scrittori dell'epoca, un tumulto si levò a queste parole nell'assemblea e se Rolando non avesse trovato protezione tra i piedi del pontefice sarebbe perito dilaniato. Il Papa, riferisce un altro cronista del tempo, Lamberto, il Papa non perdette la calma, ma semplicemente rinviò il concilio al giorno seguente. E qui San Gregorio VII si accingeva a fare quello che nessun Papa aveva mai fatto prima, che nessun Papa aveva mai osato fare, cioè scomunicare solennemente e deporre un re e futuro imperatore. Intanto che nemici in Germania, la scomunica ebbe un effetto che Enrico non si sarebbe mai aspettato. La notizia gli giunse mentre si trovava a Utrecht, era il Sabato Santo. Il re, come risposta, ingiunse immediatamente al vescovo Pibo di Tulle, suo fedelissimo, di salire sul lambone della cattedrale di Utrecht per proclamare la nullità della scomunica papale. Ma né lui, né l'altro vescovo a cui Enrico avrebbe potuto ricorrere, Teodorico di Verdun, ebbero l'ardire di espletare questo incarico, anzi, fuggirono la notte tra il sabato e la domenica. Il re si rivolse allora al vescovo stesso di Utrecht, Guglielmo, che accettò. Pronunciò l'anatema contro il Papa, accompagnandolo con ingiurie di ogni genere e dandogli dell'adultero e del falso apostolo. Ma il giorno seguente, che era Pasqua, un fulmine cadde sulla cattedrale della città e la distrusse. Fu un evento che fece rabbrividire e nessuno poté escludere il sospetto che si trattasse di un chiaro segno del cielo. Lo sgomento crebbe, cari amici, ancor più quando si seppe che Guglielmo, questo vescovo, qualche settimana dopo era stato colpito da una malattia ed era morto. Il cronista di allora, Bonizzone, scrive: «Dopo che la fama della scomunica del re si sparse dovunque, tutto il mondo romano tremò dalle fondamenta. Insomma, la scomunica fece una tale impressione ai contemporanei che perfino i più ferventi fautori, più grandi sostenitori di Enrico, furono colti da un misterioso terrore. E gli abbandoni intorno a Enrico si susseguirono l'uno dopo l'altro nel giro di poche settimane. Insomma, tutto sembrava crollare sotto i piedi del re e intorno a lui si fece il vuoto. Allora decise di giocare un'altra carta e il re convocò un'assemblea a Worms per il giorno di Pentecoste, ma nessun principe né prelato accolse l'invito. Nel frattempo, da Roma, San Gregorio osservava i frutti del suo gesto, eppure, cari amici, e non era affatto compiaciuto di questa cosa. Solo una cosa attendeva con grande desiderio, che questa sua scomunica raggiungesse l'effetto desiderato, ossia il pentimento del re e il suo ritorno in seno alla Chiesa. Nello stesso mese, di settembre, sempre il Papa scrisse per chiarire il perché di questa scomunica, quindi tutte le vicende che avevano portato a questa scomunica, scrisse sia al clero che al popolo di Germania. Nel frattempo il re si trovava sempre più isolato e abbandonato e anche i suoi nemici di sempre, i sassoni, cominciavano a rialzare la testa. E qui proprio i principi sassoni e i loro alleati, tra cui spiccavano Rodolfo di Svevia e Guelfo di Baviera, si riunirono e giudicarono il tempo ormai maturo per togliere di mezzo Enrico, colpevole di aver seminato stragi inaudite in Sassonia. Intanto Enrico IV si era ritirato a Oppenheim, in cui scrisse addirittura un edictum dove prometteva di riconciliarsi con il Papa e di fare penitenza. La paura era tanta allora. Nel frattempo a Tribur, con la presenza dei principi sassoni e di due legati papali, fu deciso che l'anno seguente si sarebbe riunito da Augusta un grande concilio per stabilire definitivamente il destino del re. Ovviamente l'intenzione dei sassoni era quella di deporlo e di nominare un nuovo re, e stabilirono che ad Augusta avrebbe dovuto essere presente Enrico come imputato per essere giudicato legalmente e avere il Papa come arbitro. E qui, durante il viaggio del Papa verso Augusta, per diversi motivi, si fermò a Canossa, nel castello di Matilde. Lo fece per motivi di prudenza, perché attendeva la scorta dei sassoni, che però non arrivò. Quindi Matilde lo pregò di fermarsi nel castello in attesa degli eventi. Diffusasi la notizia della presenza del Papa nella rocca di Matilde, molti scomunicati, soprattutto vescovi, vi andarono a piedi scalzi in veste di penitenza per chiedere l'assoluzione. Assoluzione che San Gregorio non negava mai, ma voleva vedere dei segni chiari di pentimento e di buona volontà. Un giorno di quel gennaio del 1077 giunse al Papa un messaggio da parte di Enrico che voleva essere ricevuto e assolto. Gregorio gli rispose con un rifiuto netto, ormai conosceva bene il suo temperamento e la sua doppiezza. Insomma, dopo vari tentativi, Enrico IV decise infine di forzargli la mano, e il 25 gennaio partì a piedi e scalzo verso il castello, rivestito di una misera tunica di lana grezza e camminando nella neve. Arrivato sotto il bastione, bussò supplichevole alla porta delle mura. Gregorio proibì di aprirgli. Giunse la sera e poi la notte, ma Enrico non si mosse. All'alba lo si vide ancora lì, stremato dal freddo, umiliato e orante. Eppure, cari amici, né lo stato del re, né le suppliche commosse di Matilde e degli altri presenti nel castello, oltretutto nel castello, pensate, c'era addirittura Berta, che era la moglie respinta di Enrico, ma era comunque sempre sua moglie, nessuno poté smuovere il Papa dal suo rifiuto. Troppe volte il re lo aveva ingannato e raggirato, facendogli vane promesse. Il Papa non voleva negargli la possibilità del perdono, ma nutriva diffidenza verso quel pentimento così impreviso e clamoroso, quasi spettacolare, che aveva tutte le sembianze di una finzione. Ma quando per il terzo giorno vide Enrico straziato dalla fame e dal gelo, ancora ai piedi delle alte mura di Canossa, il 28 gennaio venne accolto e fu ammesso alla presenza del Papa e fu perdonato. Questo, cari amici, fu un gesto carico di conseguenze e che per ovvi motivi rimase incompreso da molti. Infatti, dal punto di vista politico fu un errore grave. Infatti, con la scomunica il Papa era riuscito a sconfiggere il suo avversario, era chiaro che Enrico non aveva ormai più scampo. Ad Augusta poi il pio e devoto Rodolfo di Svevia, quell'anno, sarebbe stato eletto re, ed Enrico, che era il più forte oppositore della Chiesa, sarebbe stato definitivamente messo fuori, definitivamente scalzato. Eppure, cari amici, San Gregorio lo perdonò. Scrive un cronista di allora: se avesse resistito, sarebbe passato Gregorio alla storia come un politico energico, un diplomatico tenace e sottile. Perdonandolo, ha dimostrato di essere un grande papa e un vero cristiano. Come vedremo più in là, gli alleati del papa, soprattutto i principi sassoni, non riusciranno mai a capire il significato di questo gesto. Lo considerarono un cedimento, una debolezza, un errore politico, ingenuo e imperdonabile. Oltretutto, a questo punto, era anche inutile la famosa dieta di Augusta, la riunione che avrebbero dovuto poi fare. Ma in realtà il valore profondo del perdono di Canossa consiste proprio nel fatto che San Gregorio perdonò questo suo nemico pur sapendo che, umanamente parlando, quel perdono non era affatto conveniente e che gli sarebbe costato molto caro. Dopo essere stato assolto dalla scomunica, il re dovette firmare una promessa in cui si impegnava a essere fedele alla Chiesa. Appena poté, però, se ne andò, si congedò dal Papa e tornò tra i suoi fedeli in Lombardia. Si affrettò però a rassicurare subito i vescovi e i nobili lombardi, che erano contro Gregorio VII, almeno quelli simonieci e concubinari, confermando il re che questo suo andare a Canossa era solo uno stratagemma per farsi togliere la scomunica. E a prova di questo riprese con sé i consiglieri scomunicati che aveva per quel momento allontanato. Intanto i principi sassoni aprirono una riunione nel marzo del 1077 e dichiararono decaduto Enrico ed elessero nuovo re di Germania suo cognato Rodolfo, duca di Svevia, uomo energico, pio e devoto al Papa e alla Chiesa romana, il quale fu poi solennemente consacrato a Magonza il 26 marzo. Sempre in questa riunione si stabilì inoltre che il principio della successione al trono tedesco per elezione e non per stirpe avrebbe dovuto essere la norma anche per il futuro. Quindi Enrico IV era decaduto e neanche uno dei suoi figli sarebbe poi potuto diventare imperatore. Invece, alla fine, andò al trono invece Enrico V, il figlio di questo attuale imperatore. Comunque, andando per ordine, Enrico si trovava a Pavia quando apprese la decisione. Subito si diresse in Germania, si procurò rinforzi militari e fece valere il suo diritto alla corona con le armi. Insomma, fu l'inizio di una guerra civile che sconvolse il paese per molti anni. Ma anche il Papa in quei momenti non si pronunciava, non si riusciva a capire se stava dalla parte di Rodolfo o di Enrico. E in questo modo, si era messo in cattiva luce con entrambi. Il fatto è che il Papa non voleva lasciarsi trascinare in un gioco di fazioni politiche, voleva solo individuare in coscienza chi dei due fosse l'uomo scelto da Dio secondo criteri di fede, solo di fede e non di politica. In Germania imperversava ormai la guerra civile e sia Enrico che Rodolfo cercavano di tirare dalla loro parte il Papa senza però mai riuscirvi. E qui, cari amici, dovrà passare ancora più di un anno perché il Papa si renda conto che sperare in Enrico non ha ormai più senso. Soltanto nel 1080 ricambiò i sassoni di questa loro devozione, della loro fedeltà e pazienza, ma allora, come vedremo, sarà troppo tardi. Intanto l'11 febbraio del 79 ebbe luogo il consueto sinodo quaresimale. I legati sassoni descrissero all'assemblea riunita le stragi inaudite che i soldati di Enrico compivano nei territori fedeli a Rodolfo, gli incendi delle chiese, i sacrilegi di ogni genere. Il Papa, i cardinali e i vescovi rimasero impressionati dal racconto. A nessuno ormai sfuggiva che Enrico IV era il nemico principale della Chiesa e della pace tra Chiesa e Impero. Intanto, vista la dilagante immoralità del clero e visti gli abusi e le prepotenze dei signori laici sulla Chiesa, cercò il nostro Papa di rendere la struttura ecclesiastica cattolica più rigidamente gerarchica e più accentrata a Roma. Così, ad esempio, ordina che le cause più importanti di ciascuna Chiesa siano trasferite alla sede apostolica. Il fatto di fondo è che questo Papa non voleva lasciare assolutamente la Chiesa in balia di uomini avidi e violenti, come spesso avveniva. E infatti la dichiarazione solenne fu il Dictatus Pape, fu in fondo il tentativo da parte di Gregorio VII di dare formulazione giuridica scritta e di applicare alla struttura terrena della Chiesa il concetto spirituale di onnipotenza divina e di supremazia di Dio su tutte le realtà. E qui grandi pontefici come Innocenzo III, Bonifacio VIII, fecero tesoro delle sentenze del Dictatus, alle quali anzi conferirono ancora più forza e assolutezza. Ma io vorrei dire che anche l'attuale codice di diritto canonico promulgato nel 1983 da Giovanni Paolo II ribadisce con chiarezza quello che quasi 1000 anni prima Gregorio VII aveva scritto, cioè il Romano Pontefice afferma è il capo del Collegio dei Vescovi, è il vicario di Cristo e il pastore di tutta la Chiesa su questa terra. Egli quindi, in virtù del suo incarico, gode sulla Chiesa di un ordinario potere supremo, pieno, immediato e universale, che può sempre esercitare liberamente, e contro una sentenza o un decreto del Romano Pontefice non è ammesso appello né ricorso. Come abbiamo visto, in fondo il Papa concepì la sua missione di pastore universale sentendo l'urgenza e il dovere di portare a tutti gli uomini la verità, la giustizia, la pace, considerando tutti come suoi figli e come persone della cui salvezza Dio avrebbe chiesto conto a lui. Intanto, all'inizio del 1080, Enrico IV attaccò di nuovo i sassoni in Turingia e quando il 7 marzo il Papa aprì a Roma il consueto sinodo, appariva ormai chiaro a tutti che i sassoni si trovavano in una situazione gravemente critica. Enrico IV, forte della vittoria, narra così il cronista Bonizzone, si consultò con i suoi e inviò a Roma come legati, cioè come suoi rappresentanti, due vescovi che erano stati scomunicati dal Papa. Questo era un gesto di aperta sfida da parte di Enrico alla Santa Sede. Fu così che nell'aula conciliare, alla presenza di molti vescovi e nobili, nonché dei messi di Rodolfo, il pontefice lesse l'atto solenne di scomunica del re. Scomunicato e deposto Enrico IV, venne riconosciuto re Rodolfo di Svevia. Ma questa volta re Enrico non fu preso alla sprovvista. Convocò subito, con l'intento di deporre Gregorio, una nuova solenne assemblea a Bressanone. Il concilio si aprì il 25 giugno e gli alti prelati presenti erano 28. Tutti sottoscrissero l'atto di deposizione di Gregorio VII e, diversamente da quello che era avvenuto nel 76, Enrico trovava ora pieno consenso. Alla deposizione del Papa seguì nello stesso concilio la scelta del nuovo Papa. Enrico lo indicò nella persona dell'arcivescovo di Ravenna, Guiberto, scomunicato già nel 1075 e oppositore e nemico di Roma della Santa Sede. Prese il nome di Clemente III. La rottura questa volta era definitiva. San Gregorio ricevette la notizia delle decisioni prese a Bressanone mentre si trovava in viaggio nell'Italia meridionale. Infatti si stava mobilitando per cercare un forte alleato che lo potesse sostenere nella probabile guerra contro Enrico IV. Su Rodolfo in Germania ormai poteva contare poco perché era in difficoltà. Era in difficoltà perché combatteva già contro Enrico IV, ma aveva avuto molte perdite. L'unica scelta che poteva fare in questo caso il Papa erano i Normanni. quindi tentare un'alleanza con l'infido e astuto, ma pur sempre potente Roberto il Guiscardo, già da lui scomunicato. Insomma, il Papa dovette vincere la sua ripugnanza, ma non aveva altra scelta. Dopo aver fatto questo patto con il Guiscardo, tornò a Roma. Ma mentre lui era fiducioso e contava quindi sul suo alleato, Roberto non ci pensava proprio, tant'è vero che fino al 1084 il Papa fu continuamente minacciato e tormentato dalle truppe di Enrico IV senza che Roberto inviasse almeno un soldato. C'è però da dire una cosa che forse in parte ci può forse un po' stupire. San Gregorio VII era abituato ad una visione profondamente religiosa delle cose, quindi anche a non giudicare con rancore gli altri, quanto piuttosto a interrogare con umiltà la propria coscienza. Infatti San Gregorio non mancò di vedere nella guerra che gli muovevano sia gli scismatici dell'antipapa che gli altri una conseguenza dei suoi peccati e un disegno provvidenziale di Dio. Vedeva la mano del Signore soprattutto in questi momenti di grande prova. Nel frattempo in Germania si preparava una grande battaglia tra Enrico IV e Rodolfo. Enrico fu sconfitto, ma Rodolfo morì. Dopo la morte di Rodolfo, i Normanni elessero dopo 10 mesi Ermanno di Lussemburgo, ma era un uomo ben lontano dall'avere il carisma e la forza di Rodolfo, e al Papa non rimaneva ora alcun sostegno dalla Germania. Il Papa concluse quell'anno 1080 vedendosi sempre più isolato e privo di alleati, tuttavia, cari amici, la sua forza interiore non vacillava e la sua convinzione rimaneva salda come la roccia. Anzi, in quegli anni, mentre sempre più numerosi erano quelli che gli consigliavano di piegarsi per convenienza sua e di tutti, egli, a dispetto di qualsiasi convenienza umana, si dichiarava sì disposto a un'eventuale riconciliazione, ma soltanto se avesse visto i segni di un vero pentimento. Altrimenti non aveva alcuna intenzione di scendere a compromessi né con Enrico né con nessun altro. «È evidente», diceva Papa Gregorio, «che è più dignitoso lottare per lungo tempo a favore della libertà della Santa Chiesa che sottomettersi a una miserabile e diabolica schiavitù, cioè ridurre la Chiesa di Dio a una serva e a uno strumento dello Stato». Dopo la morte di Rodolfo, nel 1080, Enrico IV si sentiva ormai tranquillo sul versante tedesco ed era pronto ad arrivare a Roma per mettere alle strette il Papa, cacciarlo e insediarvi Clemente III e finalmente essere incoronato imperatore, perché non era ancora stato incoronato tale. E qui il 21 maggio dell'81, 1081, era sotto le mura di Roma, ma si accorse che la resa di Gregorio era più difficile di quello che immaginava. Lui era arrivato a Roma con poche truppe, proprio perché pensava che impadronirsi della città non gli sarebbe costato alcuna fatica. E invece i romani, che erano legatissimi al loro papa, non volevano tradirlo. Insomma, Gregorio, stretto d'assedio, cercava nel frattempo anche di richiamare, tramite lettere e ambascerie, Roberto il Guiscardo a mantenere l'impegno che aveva preso per difenderlo. Ma il normanno era assai più interessato a realizzare le sue espansioni in Oriente, quindi era insensibile agli appelli del Papa. Quanto Enrico, verso la fine dell'anno, lasciata Roma, ripiegò verso il nord. Qui, dopo aver consolidato le sue posizioni nell'Italia settentrionale, nell'aprile del 1083 si presentò di nuovo sotto le mura della città e questa volta riuscì ad entrare, anche perché nel frattempo c'erano state molte defezioni da parte di anche di nobili romani. Gregorio si rifugiò a Castel Sant'Angelo, da cui rinnovò la scomunica contro il re e l'antipapa, ma pochi giorni dopo, il 28 giugno, Clemente III fu solennemente insediato e alla presenza di Enrico e di molti nobili romani venne incoronato papa. E sempre meno erano coloro che si dichiaravano ormai amici di Gregorio VII. Il vincitore era Enrico e nessuno voleva inimicarselo. Una parte del patriziato più fedele al Papa riuscì a ottenere dal re che ci fosse la convocazione di un sinodo a Roma, presieduto da Gregorio, ancora una volta, San Gregorio il 20 novembre aprì il sinodo in Laterano e questo nel 1083 fu l'ultimo sinodo che il Papa poté celebrare a Roma. I romani erano ormai stanchi, scoraggiati, tormentati dalla fame e speravano che il Papa si decidesse a venire a patti col re. L'unico che non cedeva e che non dava cenni di voler patteggiare era proprio San Gregorio. Arroccato in Castel Sant'Angelo, dava continuamente il suo tempo alla preghiera e alla penitenza. Ma questa volta il Guiscardo, il normanno, voi che sicuramente si rese conto che Enrico stava spadroneggiando un po' troppo e avendo il timore che dopo la conquista di Roma sarebbe sceso al sud, quindi nei suoi regni, accolse l'invito del Papa e si decise quindi ad arrivare ad andare a Roma per difendere il Papa e per sconfiggere Enrico. Era il maggio del 1084 e a capo di 30.000 soldati si mise in marcia. Intanto però il 31 marzo, giorno di Pasqua, a San Pietro in Vincoli, ebbe luogo la solenne cerimonia e Clemente III, l'antipapa, impose la corona imperiale al re e a sua moglie Berta, quindi Enrico IV era diventato imperatore. Pochi giorni dopo ripresero le operazioni militari e uno dopo l'altro gli ultimi combattenti di Gregorio si arresero o furono sconfitti. Il palatino fu occupato e il re ordinò di mettere l'assedio a Castel Sant'Angelo. Ma proprio allora avvenne questo fatto inaspettato, cioè che Enrico seppe che il Guiscardo stava muovendo rapidissimo verso Roma. Cosa fece? Ritenne allora a questo punto, avendo poche truppe, di allontanarsi piuttosto che affrontarlo. Enrico lasciò il 21 maggio la città, annunciando però che sarebbe tornato presto. Quanto a Clemente III, si ritirò nell'espugnabile rocca di Tivoli. Il Papa accolse Roberto come il suo liberatore e Roberto stesso lo fece condurre processionalmente con tutti gli onori a riprendere possesso del Laterano. Nel frattempo però i romani, preoccupati della presenza perdurante dei soldati normanni che non si facevano scrupolo di compiere atti di vandalismo e di spadroneggiare per la città, continuarono a tenere un atteggiamento ostile che divenne ben presto di aperta ribellione. Insomma, la situazione si fece così tesa che il 31 maggio una sollevazione generale costrinse il duca a prendere dei provvedimenti e furono drastici. Scatenò su Roma un inferno che non si era visto, dicevano i contemporanei, dei tempi dei Visigoti e dei Vandali del V secolo. Possiamo immaginare il dolore del Papa per quello che successe in quel giorno, anche perché conoscendo la sua coscienza, dobbiamo dire che non abbiamo traccia purtroppo di nessuna lettera sua riguardo all'ultimo anno, quindi non possiamo sapere esattamente come abbia vissuto quel momento, anche se possiamo intuirlo e immaginarlo con grande dolore. Nel frattempo Roberto, ad una settimana da quello che fu definito il sacco di Roma, riunì le sue truppe e lasciò la città, ma qui il Papa non aveva ormai altra scelta che seguirlo, perché i romani erano ovviamente indignati contro di lui, ritenendolo responsabile di quello che era successo, anche se non era ovviamente stato lui a decretare questa mostruosità. Quindi si mise al seguito del duca e giunsero tutti insieme alla capitale del regno dei Normanni, che era allora Salerno. Lui, con la sua piccolissima corte costituita da qualche cardinale, da alcuni chierici, di qualche servitore, fu ospitato a Salerno con un odore degno di un papa. Sappiamo poco del modo del suo ultimo anno di vita. Nell'agosto indirizzava a tutto il mondo cristiano da Salerno una solenne enciclica, che è l'ultima del suo pontificato e della sua vita. Era un appello ad essere aiutato, ma fu un appello che restò inascoltato. Infatti neppure le nazioni alleate o addirittura vassalle della Santa Sede, come la Spagna, l'Inghilterra, l'Ungheria e la Croazia, vennero in soccorso del Papa. Clemente III, l'antipapa, era infatti riuscito a farsi riconoscere come legittimo papa in molti ambienti. Ovviamente questo conveniva a queste nazioni, perché gli affari potevano continuare come prima, non c'era più neanche il problema, pensavano loro, dei titoli che si compravano e di tutto quello che succedeva allora nella Chiesa. Come dicevamo prima, c'erano molti interessi che gravitavano intorno a queste triste realtà. Comunque nessuna di queste venne in soccorso del Papa, e a Salerno in quell'anno San Gregorio si ammalò, e le sue ultime ore vicino al suo capezzale c'erano vescovi e cardinali. E qui ci narra Paolo di Berniad, che era l'unico cronista che ci ha lasciato un resoconto di quei momenti, che scrisse intorno al 1100, quindi pochi anni dopo. Il Papa disse a loro: «Fratelli miei carissimi, io non faccio alcun conto di tutti i miei dolori, confido soltanto nel fatto che ho sempre amato la giustizia e odiato l'iniquità, per questo muoio in esilio». Espirò così il 25 maggio del 1085, allora festa di Sant'Urbano I Papa, oggi festa di San Gregorio VII. E la sua morte fu sepolto nella cattedrale di Salerno, la chiesa di San Matteo, che egli stesso aveva qualche mese prima consacrato. E nessuno in quel momento così travagliato per la Chiesa se la sentiva di diventare Papa. Furono necessari molti mesi prima che i cardinali riuscissero a nominare Desiderio, nel 1086, che prese il nome di Vittore III. La città, in realtà, la città di Roma, era quasi interamente ancora sotto il dominio dell'antipapa di Clemente III, e Vittore poté entrarvi solo grazie a una massiccia scorta di soldati normanni. Anche il successore, che fu Urbano II, dovette fare ancora i conti per parecchio tempo con Clemente III, ma soprattutto con Enrico IV, che, pensate, continuò la sua politica antipapale fino alla morte, avvenuta nel 1106. E suo figlio, Enrico V, pensate, proibì persino di farlo seppellire in Terra Santa, in Terra Benedetta. Infine, nel 1606, Papa Paolo V decretò la canonizzazione di Gregorio VII, e nel 1728 Benedetto XIII estese la sua festa alla Chiesa Universale.